have nothing to say. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Quando partecipi alla Champions è normale che l'obiettivo finale è quello massimo. Quello massimo era vincerla. Non è... Però la Champions è sempre una competizione a sé. La Champions è sempre una competizione a sé. Che scendiamo in campo non importa come, ma devi scendere per poter portare a casa i tre punti, per poter vincere. La Champions è una competizione affascinante, è una competizione che dà una visibilità mondiale a tutti e quindi bisogna ottenere il massimo. Allora, alla fine di gennaio, per la precisione il 28, venne diffusa la notizia, lo scrittore pluridecorato Sandro Veronesi ebbe la tentazione di lanciare un azionariato popolare mai visto, cioè 2 euro per trattenere Pogba alla Juventus. Poi non ce n'è stato bisogno, ci ha pensato la Juventus stessa, ma sarebbe interessante oggi, il 3 di novembre, chiedergli se lo farebbe ancora. Sandro, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Lo faresti ancora? Allora, innanzitutto erano 2 perché uno andava in beneficenza. Sì. Per non dimenticarci che per la precisione. Per la precisione. Era uno per Pogba, era uno. E uno per Gasolini, Maier, quello che vuoi. E poi sì, perché io non ho nessuna. Non mi sogno nemmeno lontanamente di prendere parte a Pogba per quello che sta succedendo, per le incertezze che la Juventus sta accusando. Pogba è quel giocatore lì. È chiaro che se gli levi i punti di riferimento, trova intorno invece che Marchisio, Pirlo e Vidal, si ritrova intorno Sturaro, Lemina e Hernanes, è chiaro che fa fatica a trovare una sua concretezza, ma penso che sia normale nei fuoriclasse. Se Pogba va via, non va a Chievo, va a Real Madrid, Real Madrid dovrà lottare per trovare il posto, e accanto o al Barcellona o al PSG, e avrà accanto dei contratti. Secondo me lui, se non ha accanto giocatori di questa levatura, è chiaro che non è il tipo di giocatore che ti fa il centrocampo da solo. Io lo ripeto come un disco rotto ormai, a costo di annoiare tutti, ma non ti preoccupa, insomma, alla Juventus manca personalità. Magari la Juventus si aspettava, o i tifosi della Juventus si aspettavano che questa personalità la potesse portare forse il giocatore in questo momento più quotato al mondo. Invece poi quel 10 diventato 10 più 5, tutte le favolette sul motivatore di Bonucci e su questi escamotage, non sono segno di una personalità che non c'è. Possiamo dire l'età, va bene, però quando uno ha la garra la vedi da subito. Sì, ma Pogba non c'ha la garra, non ce l'ha mai avuta. Pogba c'ha la classe e lo usa anche poco, e c'ha quelle intuizioni, quelle visioni di gioco che, se accanto ha dei giocatori il suo livello, prende. Se ha dei giocatori di livello inferiore è molto difficile. Se Dybala non gli fa quel velo l'altro giorno con Torino, lui non si ritrova nelle condizioni di colpire in quel modo. Poi colpisce in quel modo e fa gol, però ci vuole un colpo di genio anche intorno, non deve essere lui. Cioè, se no non è Zidane, capito? Sì. Non è un giocatore che ti fa il reparto, è un giocatore che te lo completa forse in maniera impareggiabile. Sì. Però se la Juventus voleva uno con la garra che faceva il reparto, vendeva Pogba e teneva Vidal. Sì, questo sì. Anche se vendere Vidal per quella cifra, un Vidal che stava forse iniziando la parabola discendente della Juventus, secondo me è stata una grande idea, così come resto convinto del fatto sia stata una grande idea quella della grande rivoluzione in questa stagione, anche se molti tifosi juventini, ma poi ne parliamo, non hanno tutta questa pazienza. Prima di fermarci un attimo, Sandro Veronesi, un'altra cosa: ieri ci sono state le parole di Bonucci, che poi sentiremo, seguono quelle di Evra e seguono quelle, le martellate di Buffon nello spogliatoio di Reggio Emilia. Al di là di tutto questo, mi sembra inedito, interessante, ma forse anche furbo e scaltro, questo pubblico lavaggio dei panni sporchi, perché tanto sono cose che escono lo stesso. Meglio spiattellarle al mondo. Ci siamo noi della vecchia guardia, intesi come senatori, come anziani anagraficamente, che pubblicamente tiriamo le orecchie ai ragazzini, Pogba compreso, Dybala compreso, eccetera eccetera. Io sinceramente tutta questa differenza tra i ragazzini e i senatori come impegno non l'ho vista, ho visto il solito pastrocchio difensivo, sì, che non lo fa Dybala il pastrocchio difensivo, ho visto grandi parate di Buffon, ma anche per esempio contro il Napoli il gol di Higuain era parabile, insomma ho visto alti e bassi in tutta la squadra e non soltanto questi nuovi. Certo che alcuni dei nuovi, quelli che sono arrivati nella fase, diciamo così, confusa della campagna acquisti della Juve, e mi riferisco alla dopo cessione di Vidal, sì, Cuadrado, Hernanes, Lemina, quelli dell'ultimo momento, sono arrivati un po' così, non fanno riferimento a un progetto, no? E questi sicuramente hanno dei limiti che non sono di personalità o di carattere, sono limiti più che altro tattici, che non combinano bene con quel tipo di squadra, perché quella squadra era una squadra costruita anche attorno alle qualità tattiche dei tre giocatori che sono andati. Questo è il dubbio. Questa è un'analisi perfetta dal punto di vista tecnico e tattico, Sandro, però il discorso è anche di comunicazione. Allora perché fare il mazzo pubblicamente ai ragazzini? Stanno capendo niente, purtroppo nessuno ci sta capendo più niente, per primo Allegri. Ogni tanto gli viene bene la frittata e allora dice abbiamo trovato, e invece no, non sono nemmeno i giocatori, non ci stanno capendo niente. L'unica cosa che si era capita, però stranamente, viene contraddetta dalle formazioni successive. Barzagli a destra è meglio di Mkhitaryan, e questo sì, sì, si era visto sul campo, sì, però adesso sì, l'hanno rimandato al centro, sì, e per far giocare Padoin. Non ci stanno capendo niente, nemmeno Buffon, nemmeno i senatori, perché improvvisamente quello che l'anno scorso o gli anni scorsi era il frutto di una coerenza che legava tutto, compreso lo stadio, dove era molto difficile che le squadre avversarie facessero punti, adesso si è slegato e vanno a fare punti. L'Udinese ha cominciato via via Frosinone, eccetera, punti. È quello il problema, Sandro, che non ci si capisce. Ti chiedo un istante di pazienza, poi dopo il traffico chiudiamo il discorso, visto che siamo andati su Allegri. Allora io voglio capire una cosa sul legame tra gli juventini, la juventinità, se vogliamo usare un parolone, e questo allenatore livornese. A proposito, 800 24 00 24, per intervenire, tra un attimo torniamo. Juve, storia di un grande amore, bianco si abbraccia il nero. Non sono un buon cantante, la maestra mi mette sempre in fondo. Tutti convocati. Stufe e caldaie Termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. Vi presenta Tutti convocati. Noi vecchi abbiamo cercato di far capire ai più giovani, ai nuovi arrivati, che alla Juventus non è pensabile passare da una vittoria a una sconfitta, essere così altalenanti come siamo stati in questo inizio di stagione, ma ogni partita deve essere una vittoria. E questo era Bonucci, di cui abbiamo parlato prima. Sandro Veronese, avrei altre due considerazioni per te, due. Una su Allegri, che hai tirato in ballo tu, ma l'avrei fatto anch'io. È chiaro che l'affetto degli juventini per Allegri non è né gratuito né incondizionato, ma è strettamente legato, mi pare, alle classifiche, ai turni di Champions, ai risultati. Una sorta di amore a pagamento. Ma è un po' così per tutti. Allegri è una persona molto intelligente, è una gran brava persona, è uno dei migliori che ci sono, anche umanamente, anche come spirito, come classe, eccetera. Però ci sono dei precedenti. Dalle nostre parti si dice: dove c'è stato il gobbo, ci ritorna il gobbo. E il pericolo è proprio che si ripetano le storie. Allora al Milan noi abbiamo visto Allegri che non è riuscito a impedire alla dirigenza impazzita, Galliani impazzito, di smantellare una squadra molto forte senza sostituire con investimenti giocatori come Ibrahimovic e Thiago Silva, e ancora oggi ne pagano le conseguenze, perché hanno dovuto pagare uno stonfo Romagnoli e non sanno chi metterci accanto, perché hanno ancora Mexès con quel contratto, certo, eccetera. E Allegri non l'ha impedito, non ha detto fermi tutti, se mi vendete Ibrahim, ci diamo Thiago Silva, Nesta, Seedorf, Zambrotta e Inzaghi, io me ne vado, qualcosa qua. O me ne vado. Se avesse avuto la forza di impedirlo, non so se qualcuno ha la forza di impedirlo. Ma uno come Conte si dimette e fa presto, sì. Uno come Deschamps si dimise perché non gli prendevano Toni, ma gli prendevano Amaurio o chi era. Questi sono gli allenatori che dicono sì, è vero quello che dice Bonucci, proprio perché siamo alla Juve non si possono fare risultati altalenanti e non si può stare a destra nella classifica, io non ci so che mi depauperate la squadra e non mi ricompensate con altrettanta o insomma più di lì classe e forza. Questo lui l'ha fatto al Milan, l'abbiamo visto. Non vorrei che lo rifacesse da Juve. È questo, diciamo, la mia riserva su Allegri, perché come allenatore, tatticamente e tutto, io non metto bocca, sì. Anzi, è uno che ha dimostrato molto più di Conte di saperci fare in Europa. Anche col Milan in disfacimento andava bene in Europa, raggiunse i quarti e fu un successo. Quindi ci sa fare in Europa, perché sta si vede meglio il campo che squadre. Cioè sostanzialmente però, discuti su essere un po' troppo aziendalista, questo è più che aziendalista, io penso che sia uno che magari è troppo ottimista, non lo so, uno che pensa che riesce a aggiustare le cose anche a prescindere dal fatto che ha perduto alcuni giocatori fondamentali. Non credo affatto che sia aziendalista, credo però che si possa trovare a sottovalutare una cosa che un tecnico come Conte non sottovaluta mai, e cioè il fatto che i limiti della rosa saranno poi i limiti in campo dei risultati della squadra, c'è poco da fare. L'ultima cosa, da libero pensatore invece, cosa deve fare il presidente di una federazione sportiva italiana, e non sto parlando solo della Federcalcio perché abbiamo numerosi e poco illuminati esempi in tutti gli sport, dal tennis allo sci eccetera eccetera, cosa deve fare il presidente di una federazione sportiva italiana per alzarsi dalla poltrona o per essere sollevato da una poltrona? Ma che Tavecchio fosse in grado di dire che bestialità, si sapeva dal suo discorso di candidatura, perché lì tiro fuori le banane, no? Tipo va, eccetera. Quindi a me non mi sorprende, non mi sorprende che venga mantenuto al suo posto. Io penso che si debba semplicemente pensare a non ricandidarlo, si debba pensare a una successiva candidatura che sia presentabile anche sul piano così, diciamo, del mondano. Sì. Poi sul piano della, diciamo, effettiva concretezza dell'azione bisogna vedere chi lo sostiene, e non mi sembra che i sostenitori di Tavecchio, questo non diciamo a detrimento di Tavecchio ma di costoro, siano da parte innovativa del calcio. Bisogna cercare di levare il potere a quelli, perché se no, tolto un Tavecchio, se ne fa un altro, non c'è dubbio. Sandro, ti ringrazio moltissimo. Grazie a voi. Grazie, un abbraccio, Sandro Veronesi. Allora, Pardo arriva? È arrivato a Mönchengladbach? È arrivato? È atterrato l'aereo? Tutto a posto? Lo sentiamo tra poco? Benissimo, state con noi. 800 24 00 24. Giuseppe, buongiorno. Ciao amici, sono Giuseppe. Ciao, che tempo fa, che tempo fa a Ragusa? 25 gradi. Mannaggia. Vabbè, mi sono già arrabbiato, quindi passiamo oltre. Cosa voleva dire di pallone? Sono da cazzo non vedente. Sì, mi dica. Voglio parlare della Juve, perché ho visto che sabato contro il Torino ho visto veramente una Juventus molto bella. Specialmente l'ultimo minuto ho visto Quadrato e ha fatto un bellissimo gol. Sì, contro Torino non è stata una Juventus bella, è stata una Juventus efficace, e è stata una Juventus che ha fatto l'unica cosa che doveva fare, cioè in una qualunque maniera portare a casa quel risultato. Lo ha fatto in extremis, per chi crede nella cabala e si volesse giocare questi numeri 47-55, il minuto e i secondi esatti in cui Pirlo segnò nel derby l'anno scorso, Quadrado ha segnato nel derby di quest'anno, e se volete giocateci pure il 10 e il 5 oppure il 15, cioè quello strambo numero di Pogba. Enrico da Torino, buongiorno. Buongiorno. I problemi della Juventus che non funziona sono due essenziali: troppi interessi da parte della proprietà, e quindi si muove tutto solo dietro gli interessi, e poca psicologia di Allegri. La differenza tra Allegri e Conte, che non è che Conte per forza doveva essere... Allora, mi spieghi meglio il concetto dei troppi interessi da parte della società, perché è arrivato troppi Pardo interessi. E faccio rispondere a lui. Ciao Pierluigi. Ciao. Ciao, tutto bene? Sì, siamo a Düsseldorf. Molto bene. C'è Enrico che sta dicendo: in mani della Juventus sono troppi interessi da parte della società, e questa non l'ho capita, ma te la faccio spiegare. E l'altro, la poca chiarezza da parte di Allegri, diceva? No, poca mancanza di psicologia sul giocatore. Cioè, un giocatore bravo, cioè la giornata sì, la giornata no. Questa è la capacità che ha un giocatore di vedere un suo pari, e tutti quelli che sono stati allenatori, ex giocatori di un certo livello, riescono praticamente, è una sensazione che hanno, no? Sì. E questo purtroppo secondo me manca un po' ad Allegri. Sì, questa è più chiara, mi spiega meglio quella dei troppi interessi da parte della società? Da parte della società, perché oggi nella società ci sono comunque la convinzione di aver fatto degli acquisti abbastanza sbagliati, che comunque non possono tenere fuori, perché sennò vengono subito svalorizzati, perché non so, Mandzukic a questo punto non è che si sblocca dopo 14 giornate, si vede se un giocatore che vale ad un certo punto diventa positivo subito, probabilmente ha già un po' di ritardi e probabilmente non si recupera, però se non si fa giocare non vale assolutamente più niente. Sì. Pogba sembra che ci sia un accordo che sia già del Barcellona dell'anno scorso, però Barcellona fino a giugno dell'anno prossimo non può comprarlo, però sembra che ci sia una trattativa che più segna, più è bravo, più come si chiama, fa risultati. Cioè, lei dice bisogna valorizzare quelli che abbiamo, quindi li facciamo giocare anche se sono acquisti sbagliati. A me sembra una teoria, un'ipotesi un po' estrema. Pierluigi, la lascio a te. No, io devo pensare con tutte le squadre al risultato, quindi lo credo anch'io. Non mi gustare fare chissà quali, anche perché il risultato poi coincide anche con gli interessi economici quasi sempre. Insomma, sono rarissimi e un po' cervellotici casi in cui dice meglio, è meglio se uno gioca peggio. No, non è meglio se uno gioca peggio. Io non so se c'è l'accordo con Barcellona, sicuramente si sono parlati in estate, sicuramente avranno avuto un gentleman agreement, ma non credo che la Juve sia contenta di vedere Pogba che cala come quotazione. No, non questo, penso proprio, non penso che Pogba si sia risparmiato. No, non credo neanche che la Juventus abbia bisogno di far giocare Mandzukic perché l'ha comprato. Ma assolutamente, c'è un discorso di prospettiva, magari in certi momenti si fanno delle scelte perché si vuole cercare di recuperare dei giocatori. Ecco, questo è un ragionamento che non ci può stare. Qualche volta si può scegliere di far giocare qualcuno, ma in generale non parlo solo della Juve, perché magari ti potrà essere utile in futuro. È un po' come il discorso del turnover, soprattutto le società e le squadre che hanno delle rose molto ampie, molto profonde, il fatto di poter far giocare in certe circostanze chi gioca di meno è importante per non perderli se poi sono più utili. Mancini con D'Ambrosio e Nagatomo. Appunto, ma poi fa parte anche di una normale rotazione delle energie e delle forze, che in certi casi magari è anche esagerata, perché in certi casi Robert diventa un po' scientifico e un po' così a tavolino e non mi convince del tutto. Però è ovvio che nessuno oggi nel calcio moderno può pensare di passare 50-55 partite in una stagione a 14 giocatori, quindi è ovvio che le rotazioni sono importantissime. Sì. Pier, ci sentiamo tra un attimo dopo la borsa. Stai lì. Sì, perfetto. Ok, tra pochissimo. Bene, molto bene. Il Trap apprezza, lo sentite? Seguiteci su Twitter, @tutticonvocati. State ascoltando un programma offerto da... Stufe e caldaie Termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. Si ricomincia! Tutti convocati. Solo la nebbia. Solo la nebbia. A Milano tutti hanno fretta. Ancora Medel, attenzione, zona tiro, Medel, prova la botta, rete, che gol, Medel, incredibile, 30esimo, sorpresa nettamente, Szczęsny, Italy in vantaggio. A Milano. Addirittura commosso. No, avevo le lacrime perché c'era un po' d'aria e mi dava fastidio gli occhi. Non commosso. Dalla stanchezza, sì, commosso dalla stanchezza. Milano, io mi sento più violento, me la prendo con i taxi, con il tram e le copasse. Freddo con intento, per l'estate invece la fai rezzare. pallone di Kishna, regala il pallone a Bonaventura, è scattato Bacca, palla in verticale per il colombiano, Bacca davanti al portiere, Bacca porta vuota, Bacca! E la cala il sipario, il Milan va sul 3-0 al 34esimo, Bacca sotto il settore dei tifosi rossoneri. Ma non lo so se è stato il miglior Milan, però sicuramente è stato Milan che in questa partita ha dimostrato un spirito di squadra. Milano, una volta c'era il mare. Poi torniamo sull'argomento Juventus con Pierluigi Pardo, che sta raggiungendo Gladbach per raccontarla questa sera ai telespettatori. Buonasera, ma di Mourinho e Chelsea cosa ne pensate? Pensiamo che quello che ha detto, no, non pensiamo quello che ha detto Terry pensa o quantomeno dice che la squadra è con lui al 100%. Io non gli crederei tendenzialmente, però rimarrei su questa, Pierluigi, su questa revanche milanese vista però da Roma con Tommaso Labate. Buongiorno ragazzi, ciao a tutti. Buongiorno a lei, Tommaso, vista da Roma. Dalla Roma sconfitta 4-1, per te milanista, cosa vuol dire? Vuol dire che stanno, come dire, abbiamo riportato la chiesa al centro del villaggio calcistico, cioè a Milano. Io lo posso dire senza, diciamo, interista. Ma io sono bolletto, no, volevo provocarlo, mettiamola così. Ah, invece okay. Ho semplicemente confuso. Ci sono cascato alla grande, allora. Ci stai cascato alla grande, sì. Per fortuna si parla. No, dico che Milano torna ad essere, come dire, in questo momento un pochino la capitale del calcio, lo posso dire senza problemi, perché sono tifoso dell'Inter, abito a Roma, ma sono calabrese, cioè fra l'altro faccio un piccolo appello perché ci si dia una mano sulla Locride, devastata da un maltempo negli ultimi giorni, in cui molti sembrano, diciamo, disinteressarsi. Ma tolto questo, come dire, saluto un Inter molto murignana, che arriva nel momento di massima crisi del modello Mourinho, cioè Mourinho perde col Chelsea, rischia l'esonero con una squadra che si rivolta contro, Mancini senza il bel gioco porta Perisic a fare il terzino sinistro, cioè la grande star arrivata, come dire, in Italia dal Wolfsburg, e ottiene una vittoria con la Roma che non è la classica vittoria che l'Inter faceva all'epoca di Mourinho. Questo, come dire, potrebbe far ben pensare per il prosieguo della nostra stagione, che come sappiamo è limitata a campionato e Coppa Italia, e che potrebbe alla fine diventare un vantaggio, come sottolineato da molti, compreso Arrigo Sacchi oggi sulla Gazzetta dello Sport. Mourinhana l'Inter, Pardo? Mourinhana? Sì, Mourinhana, nel senso che chiaramente punta al fine e non tanto al mezzo, quindi anche un po' machiavellica in questo. Certamente non bellissima, lo diciamo ormai dall'inizio della stagione, però molto concreta. La capacità di far giocare gli avversari è un'arte che merita benissimo rispetto. L'Inter in questo momento è la numero uno in Italia e quindi si merita il primato. Poi non so dirti alla fine dell'anno, nella somma dei punti, se arriverà avanti Roma o Milano, secondo me è molto incerto. C'è una statistica interessante che dice che allora l'Inter prende, mi sembra, in media 0,6 gol a partita dopo 11 gare, che parametrato sull'intero campionato fa 24, cifra che equivale in maniera quasi matematica allo scudetto, Tommaso. Io sono un grande sostenitore di questa teoria, cioè un grande sostenitore di quell'antico adagio secondo cui le partite, cioè i campionati, alla fine si vincono vincendo per 1-0. Abbiamo assistito nella storia anche recente del calcio italiano a squadre che col migliore attacco non si sono posizionate nelle prime 5, mentre è difficile che una squadra che abbia la miglior difesa non finisca quantomeno in Champions League. Questo potrebbe preoccupare non poco la Roma, quindi come il vecchio adagio, Pierluigi, secondo cui l'attacco vende i biglietti, come dicono gli americani, ma la difesa va a vincere i campionati. Non lo so. Nello specifico di questo campionato, in generale è chiaro che l'equilibrio, poi è la cosa più banale del mondo, no? Ormai tutti i dati, anche economici, no? Sono sempre dei rapporti, deficit, PIL e via dicendo. Quindi il rapporto è gol fatti, gol subiti, è partite vinte, partite perse. È ovvio che l'attacco scriteriato senza controllo, come si diceva in una vecchia pubblicità, non ha nessun significato. Io non lo so, io penso che siano, non ho cambiato idea rispetto alla settimana scorsa, io penso sempre che Napoli sia la favorita e che la Roma sia subito dietro. Però certo, questo Inter merita rispetto, insomma, io penso che tante volte sia sia sbagliato, come diciamo anche ieri, confondere quelle due categorie, che sono da un lato l'efficacia e dall'altro l'estetica. La bellezza, sì. Certo, l'estetica certamente quest'Inter non ce l'ha. Ripeto, sono curioso di vedere, ma è una squadra molto italiana, è una squadra molto italiana, sì, molto, molto tattica. Sì, ma poi guarda, nelle grandi partite l'Inter ha giocato sempre, a parte la Fiorentina, ha giocato sempre buoni match, anche contro la Juve in casa ha fatto comunque una partita intensa, cioè ha fatto la prestazione, secondo me. E manca un po' di qualità offensiva, e quindi è chiaro che nelle partite con le medio-piccole qualche difficoltà c'è stata. Ed è per questo che è passato un episodio per risolverla, qualche sì. volta non è bastato, però. Ed è per questo che non può fare a meno del signor Mandanara. La domanda è l'Inter. Allora, te lo dico semplicemente: se l'Inter rimane questa, non vince il campionato, secondo me. Cioè, non ha, nonostante sia in testa alla classifica, secondo me non ha la forza per vincere il campionato. Sì. Se migliora, e un margine di miglioramento davanti ce l'ha. Indiscutibilmente ce n'ha, perché Icardi, tanto per essere chiari, può migliorare. Perché Perisic non farà terzino tutta la vita. Jovetic può accendere la luce. Se migliora la base si diverte. La base si diverte. No, io però pure io volevo fare una precisazione, anche perché non voglio sembrare il tifoso eccessivamente entusiasta per il primato riconquistato, per la partita vinta con la Roma, perché io lunedì scorso sono andato da Pierre a Tiquitaca, sì. E ho messo, diciamo, a verbale le sue stesse perplessità. Cioè, si parlava di Icardi che non segna, io ho detto che questa squadra ha un potenziale offensivo molto ridotto, cioè nel senso che prima di non segnare Icardi non tirava. Quindi è il barometro, Tommaso, Icardi è il barometro dell'Inter. Se non comincia a segnare lui e non ne segna 20, diventa difficile se la squadra è questa. E sono perfettamente d'accordo, giusto per dire che conservo anch'io le stesse perplessità sul gioco, che se a me, diciamo fuori dalle battute, dicessero l'Inter è favorita per lo scudetto o meno, anche io la metterei dietro il Napoli sicuro, dietro la Roma sicuro e dietro la Fiorentina forte. No, dietro la Fiorentina non direi, diciamo due outsider, le due outsider sono quelle con... insomma, la seconda fila, diciamo, fosse un gran premio, terza linea per l'Inter, quarta per la Fiorentina, a mio avviso. Sì, con la Juve, secondo me, che Roma, Roma e Napoli non sono outsider, sono proprio le squadre più forti del campionato. No, stiamo dicendo l'Inter e Fiorentina outsider, sono d'accordo. Io, infatti, ho lo stesso pensiero di Pierluigi. Io ho lo stesso pensiero di Pierluigi. Volevo chiedere all'Abate, che si occupa di politica per lavoro e di calcio per piacere, se questo parallelismo, questo giochino che è stato fatto in questi giorni con una città commissariata da una parte, una città che celebra il trionfo mediatico e anche di sostanza dell'Expo, unita alle due vittorie dei due milanesi, so se c'è un nesso o se è una roba ardita, e anzi il calcio da questo punto di vista può essere fuorviante, perché magari può regalare gioia a città che sono in difficoltà, e invece ci sono città magari amministrate benissimo, fortissime dal punto di vista economico, che non toccano lo scudetto per 40 anni. Beh, guarda, solitamente questo è un giochino che si fa, spesso nel momento in cui ci sono le grandi competizioni internazionali. Quando tu uno dice un paese vince il mondiale, si aumenta il PIL, cioè si crea molto spesso questo legame. Questo legame purtroppo recentemente è un po' crollato, perché l'inizio della crisi greca paradossalmente ha cominciato a coincidere con la clamorosa vittoria che la Grecia ebbe agli europei del 94. Però in questo momento il giochino paradossalmente funziona, l'efficienza delle squadre milanesi, tra l'altro in certi casi efficienza ritrovata in maniera particolare, perché io rimango dell'idea che un Mihajlovic di 15 anni fa sarebbe stato esonerato da Berlusconi dopo i primi contrasti. Adesso invece emerge questa nuova efficienza che anche il gioco del Milan ha dimostrato di saper trovare grazie all'allenatore più che grazie ai suggerimenti. È interessante che il rapporto di forza con Berlusconi, Tommaso, che viene sottolineato dal tuo... No, è interessante anche il rapporto di forza con Berlusconi, infatti poi lo chiedo anche a Pardo questo, voglio interrogare anche Pardo su questo punto. Sul tuo giornale, sì. Corriere della Sera, si dice Milan risanato, Mihajlovic ha difeso le sue idee, trovato la cura, su Repubblica addirittura, Mihajlovic piega Berlusconi, il Milan vola con le sue regole. Interessante, ragazzi, questo rapporto di forza. E al momento la situazione è questa, traslato su 15 anni fa, Mihajlovic sarebbe stato esonerato subito, avremmo avuto l'interregno di Tassotti, salvo poi magari qualcuno che li chiamava Sacchi, la storia che conoscevamo. Mentre non solo Mihajlovic ha contraddetto i dettami presidenziali, ma è riuscito a resistere e a dimostrare, almeno per il momento, che si sono rivelati azzeccati. Questa è la cronaca di questi giorni. Poi sulla storia Berlusconi è abituato a sorprendere sempre tutti, ma nel breve periodo è ovvio che ha incassato una sconfitta politica interna che sarà stato ovviamente il primo a festeggiare, visto che il primo tifoso è il presidente della squadra. Politico calcistica. Grazie Tommaso, grazie. Grazie a voi ragazzi. Aspetta, dimmi Pier. Una cosa finale in 20 secondi prima del traffico. In realtà negli ultimi anni la questione, parliamo di efficienza, quindi parliamo di politica, di amministrazione, Roma e Lazio sono state certamente più avvedute di Milan e Inter. Cioè, se guardiamo il rapporto tra investimenti e risultati, non c'è partita. La parte della Roma di Pallotta comunque ha fatto che hanno cessioni, che anche giocatori presi e valorizzati come Marchino, come lo stesso Lamela e la Lazio, insomma, che è una gestione molto culata, probabilmente troppo culata, ma i risultati in relazione a quello che spende sono ottimi. Mentre Inter e Milan hanno fatto scelte, soprattutto in quest'ultima campagna acquisti, insomma, molto molto forti. Quindi questo regime di efficienza in realtà è più a Roma che a Milano. Su questo sono d'accordo. Poi voglio sentirti anche su questa storia Mihajlovic Berlusconi, ma magari anche sul derby, quel derby strano che si è giocato ieri ad Arcore senza le signore, però, perché Barbarella non era presente all'incontro storico, in qualche modo, perché è la prima volta che avviene, tra Berlusconi e Toir. Ci sentiamo dopo il traffico. Torniamo subito. Tutti convocati. Autostrada Pedemontana, la prima e unica senza caselli. Scoprila su pedemontana.com. Vi presenta. Tutti convocati. Noi attendiamo naturalmente che venga battuto questo calcio di punizione. Piede sulla palla, la specie, parte il tiro. Rete! Maradona ha segnato. Magnifico calcio di punizione da parte della formazione napoletana. Il Napoli è passato in vantaggio proprio a circa 27-28 minuti dall'inizio del secondo tempo e conduce così per una rete a zero. Ma quando ha segnato questo gol alla Juventus, che è andato verso il suo pubblico napoletano, cosa ha pensato? Che colore è il gol? il gol, sì, il colore è azzurro per tutta la gente di Napoli. Tutto il mondo conosce questo gol, su punizione da dentro l'area. Quelle due voci che abbiamo sentito, fanno un attimo. America, Galeazzi. Può sembrare autoreferenziale da giornalisti, ma insomma, veramente ci sono maestri, che sono anche altri. Sì. Però, insomma, per il mestiere che facciamo sono questi due. Questo proposito. Erano anche altri tempi. Galeazzi e Ameri. Questo gol compie 30 anni oggi. Questo gol compie 30 anni oggi. Da giornalista di molto mondo, quale sei? Abbiamo sentito la voce, ma c'è il video ovviamente che potete trovare ovunque. Galeazzi che va nello spogliatoio del Napoli e intervista un Maradona in accappatoio. Sai che a te non succederà mai questo? Almeno spesso sì. Prova a intervistare Messi in accappatoio. Provaci, andare nello spogliatoio dopo la partita. Può succedere una volta all'anno in occasione delle grandi feste, delle grandi promozioni in Serie A, però qui ci sono due cose. Una è stato chiaramente fatto di congiuntura, in quegli anni lì appunto c'erano meno addetti stampa, meno filtri, i giornalisti andavano al campo e parlavano con i giocatori, non c'era il risalto mediatico che c'è oggi. Non c'erano le preoccupazioni e le paure, quindi è chiaro che la Rai agiva fra l'altro in un regime di monopolio in quel momento lì. Sì, chiaro. Forse è più facile costruire, però poi secondo me c'è molto del talento straordinario che c'è Piero Galeazzi. Quegli anni lì, e quando lo rivediamo sul Rai Sport, secondo le vecchie immagini, per me è un modello assoluto, è un esempio assoluto, perché riusciva ad avere un rapporto realmente alla pari, realmente friendly, come diciamo noi come dite lì dalle parti di Düsseldorf, come diciamo qui con i protagonisti, che è la cosa più importante, perché noi invece non c'è niente di tutto dell'eccesso di forma quando si intervistano i giocatori o dello stereotipo, no? Delle domande banali, del non scherzare mai. Ecco, Gian Piero da questo punto di vista è un maestro assoluto, proprio assoluto, certamente in un'epoca dove mi sarei divertito, ecco. Sì, ci sarebbe. Lo invidio dai, un po' per dai. Ma non è capito. Poi la domanda, vabbè, domanda rivedibile secondo me, di che colore è questo gol? È una giovanissima voce di Aghito che dice: vabbè, che colore deve essere? Azzurro come il cielo e come Napoli, o come il cielo di Napoli, come la maglietta del Napoli, insomma. Però scusa, posso dire una cosa di 5 secondi? Una domanda lì ci sta proprio perché è fatta nello spogliatoio, sì, quindi sì, consente un'intervista molto più emotiva rispetto a quella se c'hai dietro un backdrop, come si dice in gergo, cioè il pannello degli sponsor. Ah, di sicuro. E magari è passata mezz'ora dalla fine della partita e ci sono 27 interviste da fare, e i calciatori si annoiano pure. Quindi sì. Dipende dal climax, insomma. Esatto, tecnica della comunicazione, chiaro, l'intervista a bordo campo all'intervallo così di corsa, probabilmente sotto la curva, è un po' diversa da un'intervista fatta magari mezz'ora dopo. Sì, questo è evidente. In una sala stampa, no? Senti Piero, abbiamo ancora 5 minuti, 2 ascoltatori. Io avrei un sacco di cose da chiederti. Volevo chiederti del rapporto tra Mihajlovic e Berlusconi, volevo chiederti di questo derby giocato ieri tra Toira e Berlusconi ad Arcore senza Barbarella, e questo mi sembra un punto importante. Però devo chiederti anche poi cose sulla partita della Juventus, perché c'è una novità importante informazione, la dico subito: gioca Dybala al posto di Mandžukić e secondo me è la Juventus migliore possibile in questo momento, considerati gli infortuni, le assenze, Khedira, eccetera. C'è questa voce diffusa dal sito internet di Mediaset Sport, secondo cui Mancini, telefono bollente come al solito, vorrebbe Pirlo per il finale di campionato alla Beckham, tanto per intenderci. Tutti argomenti che approfondiremo, ma non ora, perché c'è Guglielmo da Brescia e Alessandro da Bergamo. Guglielmo, buongiorno. Buongiorno a voi, saluti particolari a tutti e due, va, perché siete bravi. Grazie. Comunque ho solo una domanda, un dubbio più che altro. Sì. Al Genta milanese, secondo me, ho un dubbio. Se torna Balotelli, cosa fa il Milan? Migliora? No, perché secondo me l'ha già rovinato due volte. Prima, quando ha distrutto l'attacco, e una dopo, quando è tornato adesso, perché Bacca e cosa ha smesso di giocare. O sbaglio? Non lo vedrei esattamente così. Secondo me, se visti le poche scintille di Balotelli in questa stagione, c'è l'atteggiamento giusto adesso alla pubalgia, secondo me potrebbe essere un giocatore in più per la rotazione del Milan. Ma voglio dire, non si può rimproverare a Balotelli che gli vuoi dire in questo spizzico di stagione. Si può rimproverare mille cose a Balotelli quando si porta male. Questa volta non si è comportato male, che poi la sua presenza a un certo livello possa rappresentare un problema, perché può scalfire un certo tipo di equilibrio che ha trovato Mihajlovic, penso io possa essere anche d'accordo, però insomma non dire, si può fare una colpa di questo, la colpa gliela puoi fare se gioca male, se spacca lo spogliatoio, se crea problemi. Chiaro, non se diventa un'alternativa in più e quindi hai un problema di abbondanza e magari hai voglia di farlo giocare, questo va a alterare gli equilibri, insomma non è colpa di Balotelli. No, non è colpa di Balotelli, poi mi sembra abbia caratteristiche diverse da entrambi gli altri attaccanti del Milan, in particolare diverse da Bacca, quindi un Balotelli che sta bene e se si comporta bene come ha fatto fino adesso, e l'ha sempre detto Mihajlovic, secondo me può essere un valore aggiunto, non una sottrazione. Può fare anche l'attaccante esterno nel 4-3-3 con del sacrificio, che certo. Chiaramente non è Bonaventura come caratteristiche, è ovvio. Però in certe partite lo può anche fare, può anche rappresentare un valore aggiunto. Senti Pierluigi, per chiudere diamo due ragguagli sulla Juventus di stasera. Allegri ha parlato prima in conferenza stampa, cioè prima ieri in realtà, e le ultime dicono che giocherà Dybala insieme a Morata davanti, e ci sarà Hernanes al centro del centrocampo. Khedira sappiamo è indisponibile. Tutti gli altri sono confermati. Mi sembra la Juventus in questo momento migliore. Sì, beh, con l'assenza di Khedira è inevitabile. Assenze stanti, ovviamente. Sì, appunto, assenze stanti. No, sono d'accordo. Dybala certamente ha fatto il più di mangio, che ci sono discussioni. Morata è l'uomo delle grandi notti, anche se ultimamente il campionato ha faticato, ha avuto anche qualche problema tattico, ad esempio della partita contro il Torino. No, ma la Juve deve fare prestazione, ha il vantaggio di avere una classifica favorevole, secondo me non dovrà farsi prendere dall'assillo di vincere tutti i costi stasera, potrà anche provare ad aspettare il Mönchengladbach che sta molto bene dal punto di vista della condizione con le sue vittorie consecutive, sei in campionato e sei, mettendosi anche la Coppa di Germania, però comunque la Juve può anche mettersi ad aspettare o dare gli spazi, quindi io credo che ci siano scenari tattici molto interessanti per la partita di stasera. Certo, serve serve la famosa continuità che chiede Allegri. Allegri ieri con la famosa frase, non riusciamo a vincere le partite di fila, sembrava certo, loro ne hanno vinte 6 di fila, 7, noi facciamo fatica a vincere 2, ma è la realtà. È la realtà, non è sembrato chissà quale sfogo, ma è stata una assolutamente. Poi Allegri è stato estremamente caustico e preciso nelle sue dichiarazioni. Mi ha stupito di più l'ennesima lavata di capo di Bonucci ai giovani, ma questo è un altro argomento di cui parleremo. Grazie Pier, buon viaggio, ci sentiamo domani. Buona partita questa sera naturalmente. Alessandro da Bergamo, ce la facciamo? No, uno mi dice sì e l'altro mi dice no. Alessandro, aspetti un attimo, sentiamo insieme il GR e poi parliamo. 800 24 00 24, numero verde. E saluto anche Gianluigi Pardo. Tutti convocati. Radio 24 apre una finestra sui problemi quotidiani delle persone disabili. Sono cittadini italiani come tutti gli altri, ma spesso costretti a vivere in un mondo fatto solo per normodotati. Ci diciamo anche noi disabili, perché tutti abbiamo diritto alla socialità, a muoverci nelle nostre città, ad avere spazi accessibili, a non essere considerati cittadini di serie B. Segnalaci ogni disattenzione, sopruso, barriera architettonica o mentale che un disabile sopporta tutti i giorni. Scrivi a anche noi disabili @radio24.it e noi ti daremo voce dai nostri microfoni. Il segnale orario vi è offerto da... Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. State ascoltando un programma offerto da Stufe e caldaie Termo Rossi, una promessa di calore per un amore di casa. Che dire, arieccici. Tutti convocati. Tutti convocati, altro che, ogni giorno dalle 14 alle 15.30, per chi ancora non lo sapesse, 800 24 00 24 per intervenire, per chi ancora non lo sapesse. Giorgio De Luca, il nostro autore, Gianmarco Ferronato in regia, Giovanni Melchione in redazione, per chi non lo sapesse. Alessandro da Bergamo e Antonio da Roma sanno invece già tutto. Alessandro, buongiorno, mi dica. Buongiorno, grazie per la convocazione. Volevo parlare dei problemi della Juve, nel senso che oltre che una mancanza di leadership a centrocampo, sì, in cui c'è anche Marchisio che continua a fare il principino e non il principe. Ma dai Alessandro, Marchisio è stato fuori praticamente tutta la stagione, io credo sia, e l'anno scorso forse è stato il migliore della Juventus per continuità in quel centrocampo. Sì, io spero che quest'anno recuperi un po' il carattere del centrocampo, perché non c'è solo Pogba. Ce l'ha Alessandro. Io Marchisio non ho dubbi. Sì, volevo dire che per me nella Juve c'è un problema di gol, nel senso sono stati venduti 3 giocatori, Vidal, Tevez e Llorente, che ci facevano 35 gol all'anno e quest'anno fatichiamo ad arrivare a 10 gol. E questo sì, ma il problema è ridotto a forse uno solo di questi tre nomi, perché Vidal l'anno scorso non ha avuto la media realizzativa straordinaria, assoluta, per uno che giocava nel suo ruolo delle passate stagioni. Llorente non ha segnato quanto l'anno prima, ha trovato a fatica la via del gol. Il problema, che, e lei ha ragione, si riduce a un nome e lo conosce benissimo. Quel nome. E Tevez portava anche le borracce alla squadra. Tevez faceva qualunque cosa. Tevez faceva qualunque cosa. Faceva qualunque cosa. Era il fuoriclasse cui ti affidavi nei momenti in cui non riuscivi attraverso il gioco, ma questo succede per tutte le grandi squadre, ad arrivare alla finalizzazione. Tevez era quello che portava le borracce, che trascinava e che faceva gol. Cioè, in una parola, il fuoriclasse che la Juventus in questo momento in attacco non ha. Magari Dybala fuori classe potenziale, Morata grande finalizzatore, posso dire magari già non più potenziale, grande realizzatore che può e deve crescere ancora, però quello che faceva Tevez l'anno scorso in questa Juventus non lo fa nessuno. Provate a immaginare questa Juventus con questo allenatore, con quel Carlos Tevez, e poi ne parliamo. Antonio Roma. Pronto, buongiorno a voi. Buongiorno. Buongiorno a voi. Intervengo perché prima ho sentito un ragazzo che diceva che il centro del calcio è ritornato a Milano. Personalmente non ci credo. Personalmente credo che Inter e Milan siano al di sotto sia di Roma che Napoli. per quanto mi riguarda. Guardi Antonio, sono le stesse cose che dico anch'io, ed è uno dei punti su cui più mi trovo d'accordo con Pierluigi Pardo, cioè il mio compagno di banco. Io continuo a fare questo tipo di schieramento, no, di griglia. Anche se la Roma ha perso, voglio dire, sì, ma ha perso per un episodio. Ho capito. L'unica cosa, sa qual è, Antonio? Allora, Napoli e Roma in quest'ordine, sulla griglia di partenza, secondo me. Ma sa perché? Perché la Roma continua a vivere un po' sulle montagne russe. L'altra sera ha creato un sacco di occasioni da gol. Siamo d'accordo, ha sbagliato molto, ha vissuto una partita difficile. È stata sorpresa però da Mancini, è stata sorpresa dagli ingressi, che nessuno, tutti siamo stati sorpresi, però chiaramente no, non è nostro compito, non è né nostra possibilità trovare delle contromisure. Mancini ha sorpreso Garcia e la Roma si è un po'... così, si è un po' sciolta, si è un po' spaventata forse dall'incapacità di reagire immediatamente a questo tipo di situazione. Se possiamo fare un appunto a Garcia è questo, secondo me. Il fatto di poter vivere in una maniera sola, bisogna inserire Dzeko, che è un grande giocatore, e magari bisogna avere un po' più di prontezza nel reagire nelle grandi partite, soprattutto alle mosse avversarie. Allora, 800240024, la domanda adesso è questa: dos bandidos o dos cojones? Grande Mark! Mark, il vincitore! Mark! Con la coppa! All'improvviso tutto degenera. Mentre arrivano altre persone, i Marquez si avventano sul cameraman e cercano di strappargli la telecamera. Mentre noi cerchiamo di proteggerlo. Il signor Marquez non ha gradito la coppa minchione che le Iene, come sapete, stavano cercando di consegnargli a casa sua. Ne è nata questa colluttazione, tutta l'attrezzatura, l'armamentario della troupe è stato con le brutte requisito. Non esiste un filmato di questa scena, esiste solo questo audio, ma la vicenda la conoscete tutti. Questo per dire che è già fuoco su Valencia. Leo Turrini, come andiamo, maestro Zetta? Molto bene. E lei? Oggi Pardo non c'è. Pardo l'ho sentito prima, in viaggio nel cuore della Germania tra Düsseldorf e Mönchengladbach. No, perché ho capito che ormai, cioè, noi in Formula 1 abbiamo il dualismo Raikkonen-Bottas. Sì. In televisione abbiamo Zetta versus Pardo, è vero, lei ha debuttato sul video con Gazza TV, Pardo fa tiki-taka. E questa sera io ci ridò, Prima o poi 20 e 30, vi schianterete, capito? Come i due finlandesi, come Rai con le botte. Ma tu vuoi farmi parlare veramente di Marquez e Valentino? Leo, voglio solo... Che nel traffico, però, traffico, attenzione. Sì. Sulla Pero Corbano, voi direte, ma come, ancora code che l'Expo ha chiuso? Ma c'è il carro attrezzi mandato da Marchionne per caricare i resti delle Ferrari di Vettel e Raikkonen, che entrambi purtroppo, messi quei nuvole come cantava Iannacci, insomma, sono andati a stamparsi allegramente. Sono cose che succedono, amici dello sport, facciamone una ragione. Però... per quanto riguarda la gara di Valencia, non lo so, cosa possiamo dire? Caro Genta, mi aiuti? No, ma io ci provo, Leo. Allora, le notizie, ti posso dare le notizie di oggi, ma le sai anche tu, guerra di comunicati già cominciata tra Honda e Yamaha, la Honda: dimostreremo con la telemetria che Valentino ha scalciato il nostro Marchito. Comunicato della Yamaha: non rompete le scatole, quali calci, fate i bravi. Questo detto in sostanza. Poi c'è, carino, interessante, El País, principale quotidiano spagnolo, che abbozza una difesa a Valentino, sotto un titolo, e se Valentino avesse una difesa nel paese che critica un certo patriottismo iberico, e sottolinea che il moto mondiale l'adorna, il grano lo fa non con Marchesinho, ma lo fa con il numero 46 giallo. Questo non è male, dall'interno della Spagna. Devo dirti una cosa molto banale, se vuoi. Secondo me sarebbe intelligente da parte di tutti, anche se temo che sia troppo tardi, non spegnere il fuoco, che è impossibile, ma quantomeno provare ad abbassare l'intensità delle fiamme, nel senso che quello che è successo in Malesia e anche prima l'abbiamo visto tutti, l'abbiamo commentato tutti, adesso c'è ancora una gara. La cosa che devo dirti mi lascia perplesso, ma da tempo, è che chi governa il moto mondiale, quindi questa dorna che poi sono degli spagnoli, sì, no, abbia di fatto lasciato che la situazione degenerasse anche a me, questo Leo. Punto. Anche a me, perché anche a me. Tu ricorderai, prima della gara in Malesia, Rossi aveva detto nella conferenza del giovedì: ah, ma io sono furibondo con Marquez perché ho verificato che in Australia si comportava in un certo modo, corre per farmi perdere, eccetera. Marquez aveva risposto per le rime. Ecco, premesso che poi quando sono sulla pista, questi due fenomeni, perché comunque sono due fenomeni, si comportano come l'istinto suggerisce loro, però sarebbe stato logico che chi gestisce il baraccone avesse chiamato, bravissimo, ma no, ma è chiaro, e avesse detto: oh, guardate che insomma avete se non altro una responsabilità davanti a milioni e milioni di persone, agire in modo preventivo. Poi, Leo, su questo però voglio dire, caro gente, adesso tu sei diventato un mezzo busto, come diceva Saviani, quindi sei un idolo della televisione, per cui voli altissimo, tu che sei un mezzo busto, devo anche dirti, per onestà intellettuale, siccome io c'ero, sì, che ARS nel 97, il giorno prima della famigerata collisione tra Schumi e Villeneuve, sì, la Federazione Internazionale dell'Automobile chiamò Schumacher e Villeneuve e disse: guardate che domani ci saranno centinaia di milioni di telespettatori nel mondo, è in gioco la credibilità del nostro sport, aperta parentesi, punto interrogativo, chiuso parentesi, perché sul fatto che la Formula 1 sia uno sport potremmo aprire un dibattito degno non già di Tiki Taka ma della sua trasmissione su Gaza TV. E poi, nonostante tutte queste, diciamo così, serenate, ammonizioni, questi, sì, ecco, questi severi moniti alla Oscar Luigi Scarpa, Sbam, no? Sbam. Quindi magari non sarebbe servito, però ecco, è un po' un dispiacere. Poi guarda, io la settimana scorsa ho fatto un'intervista al papà di Simoncelli, che è una persona straordinaria, e lui mi ha detto: ma insomma, ci dovremmo chiedere, senza moralismi, no, ma un ragazzino che comincia a correre in moto, no, che vuole diventare un asso delle due ruote, forse anche a livello di Rossi e di Marquez, cosa avrà provato vedendo quelle scene lì? Che cosa avrà pensato? Ma Leo, adesso io lo so che quando si fa questi discorsi dopo ti dicono: ah, il moralismo, un tanto. No, non è questione di moralismo, Leo. Ecco, allora vedi, lì bisogna poi separare, perché io credo che se uno guarda fino al momento, diciamo, fatidico, fino agli istanti della collisione o della pedata, io non lo so, poi sono usciti 384 video, sembra la tua trasmissione a Gaza TV, non si capisce. Prima avevamo visto uno spettacolo mozzafiato, i due campionissimi, i quali chiaramente si detestano, ma che facevano delle manovre stupende, no? Devo dire con un talento, con un estro assolutamente straordinario. Allora io vorrei dire al ragazzino che vuole diventare un campione di moto, che voi guardate fino ai secondi che precedono l'incidente, perché quella è la vera grandezza di Rossi e di Marquez, questo sicuro. Dopo, Leo, però dopo diventa una cosa, secondo me diventa un duello rusticano, diventa un fare a botte al bar, diventa una cosa di questo tipo. Adesso ci scazzottiamo, hai capito? Sì, ci scazzottiamo e vediamo chi ce l'ha più lungo. Il discorso bravo, è questo. Gente, tu sei bravissimo anche in TV, non oso pensare cosa farai su Netflix. Io immagino che tu andrai anche a Netflix prima o poi, così Pardo morirà di invidia. Ma di diciamolo, l'abbiamo già detto, Hamilton bussò alla porta di Ron Dennis dicendo io voglio diventare il nuovo Senna. Pardo bussò alla porta di Aldo Biscardi, e perché non lo volete ammettere, no? Dicendo io voglio diventare il nuovo lunedì sera in TV. Non aveva previsto lo sbarco del finto amico Genta. Voi due siete come Rossi e Marquez. Rossi Marquez, addirittura. E questo è il risultato, cosa volete che vi molto. Senti, meglio. Io ti voglio le Bottas, che almeno animano questo derby delle renne. Prima di chiederti del doppio sban della Ferrari di questa scena un po' da libro cuore di arriva bene che va a consolare l'inconsolabile Vettel, prima di chiederti questo però io voglio approfittare della tua geolocalizzazione, se me lo consenti, perché oggi è successa anche questa, che saprai. C'è Stefano Bonaccini che va a scuola da Zamparini. Guarda, allora, 5 partite, Sannino via, Castori torna qui, via Sciansogliano, adesso arriverà un altro. Guarda, io posso dirti una roba? A Carpi. Se ieri sera io fossi stato ospite a Tiki Taka, sì, ma anche se fossi stato ospite da te, perché ormai voi avete occupato militarmente la televisione, ma voi quando comincerete a lavorare nella vita non si sa, ma comunque va bene. Conteremo mai. Vi avrei detto che immaginavo una soluzione del genere per il teatro, perché io conosco Bonaccini, che è un ottimo imprenditore, un grande appassionato, e credo che in cuor suo non avesse mai, sai come diceva Altan, no? Nel mio famoso vignetto, ogni Ciputi, ogni tanto mi viene in mente idee che non condivido. Ecco, secondo me Bonaccini non condivideva la sua idea di aver rimosso Castori. Credo che abbia ceduto lì un po' alla suggestione, siamo in Serie A, proviamo a restarci, allora di solito cosa si fa se la squadra non funziona? Si cambia l'allenatore. No? Lo dico col massimo rispetto per Sannino, che certamente sarà un bravissimo professionista. Successe anche l'anno scorso, come sai bene, a Di Francesco. No, 2 anni fa, sì, bravo, infatti volevo arrivare lì. Cioè, poi in realtà, alla fine della fiera, secondo me Bonaccini quel cambio non lo voleva fare, cioè, dentro di sé era in contraddizione proprio, no? E adesso torna, proprio seguendo l'esempio del Sassuolo di 2 anni fa, sulla vecchia strada, sperando che l'epilogo sia lo stesso. Io ricordo che il Sassuolo allontanò Di Francesco, prese Malesani, che veniva dalle sue linee di Prosecco, io lo saluto affettuosamente perché comunque Malesani è l'ultimo allenatore italiano ad aver vinto con UEFA Europa League, come diavolo si chiama, con il Parma, quindi tanto valore dopo non doveva essere. Malesani fece 5 partite, punti 0, se ne tornò a potare i vigneti perché era la stagione adatta. E lì è nato Sassuolo dei Miracoli. Ed è nato Sassuolo dei Miracoli. Ecco, io non dico che per il capi con il ritorno di Castoris sarà la stessa cosa, dico solo a tutti quelli che dicono Bonaccini come Zamparini, la Rava, la Fava, te l'ho detto io, sì, lo so, infatti lo sto dicendo al conduttore di casa tua. Esattamente. Abbiate un attimo di no, non di pazienza, ma io avevo bisogno di una tua spiegazione, perché no, un sai, attimo dico io, perché voglio dire, l'uomo secondo me adesso torna a essere il Bonaccini vero. Se deve andare in bici andrà con Castori. Io penso che per una realtà come il CAP poi retrocedere non sia né un'infamia né una vergogna, assolutamente, perché comunque, no, poi è chiaro che razionalmente noi dovremmo dire non doveva fare questa cosa. No, ma mi è bastata quella frase di Altan, io ho capito tutto. Ogni tanto mi vengono in mente delle idee che io non condivido. Un po' come quando vedo Todd, presidente della federazione, che è stato 15 anni a Maranello, era arrivato col colletto sporco della camicia, uscito vestito solo di cattivi, ne abbiamo fatto l'uomo più ricco, era il Bumbam, ci ha fatto vincere, per carità, adesso il presidente della Federazione Internazionale, il suo unico obiettivo è danneggiare la Ferrari. E lo vogliamo dire, insomma, anche questo pinguino francese è vero, come diceva un noto filosofo, che avere sempre la stessa dolosamente fine, Leo, dolosamente, cioè dolosamente è come Marquez con Valentino, dolosamente lo fa con dolo. Oddio, sai, parlare di dolo dopo uno ti arriva con uno studio siamo fatti così. No, io dico una cosa diversa. È come Marquez, con Valentino. Come sosteneva un filosofo, avere sempre le stesse idee e non cambiarle mai, come portare sempre lo stesso paio di mutande, dopo un po' sono sporche, va bene. Però Todd, quando era la Ferrari, diceva le stesse cose che dice adesso, arriva bene. No, quindi non è vero che i motori debbano essere quasi regalati ai team clienti, non è vero che è giusto aver abolito i test, eccetera. Adesso poi il presidente della Federazione Internazionale sostiene esattamente l'opposto. Tu mi chiedi se c'è del dolo, no, forse del dolo no, però c'è come dici sempre tu che hai studiato contrariamente a me, un po' di acrimonia, nel senso che Todd secondo me è molto contento che la Ferrari non vinca in Formula 1 e che l'ultimo successo iridato naturalmente con il leggendario Kimi Raikkonen sia stato ottenuto dalla Rossa con lui ancora al timone. Naturalmente perché sono solo supposizioni. Sì, ma siamo tutti esseri umani. No, poi sai, come diceva un grande esperto di calcio, a pensare male si fa peccato, ma stavolta ci si azzecca. Talvolta ci si azzecca. Era Giulio Andreotti, che io non ho mai compreso bene se capisse di politica, ma di calcio. Di calcio sì. Capiva certamente. Di calcio capiva. Grazie, Leo. No, grazie a te, buona fortuna. Mi dispiace che farai chiudere Pardo, queste cose veramente. Raikkonen Bottas, bravissimi. Se altri, adesso no, l'ultimo aggiornamento sul traffico. Attenzione, se vi trovate sulla Salerno Reggio Calabria, il traffico è stato ostruito perché si sono tamponati Pardo e gente finita in una scazzottata. Altro che Raikkonen Bottas, mettetevi in coda, abbiate pazienza, no, perché tra siamo... divi della televisione si sa come cominciano le cose. Io ti saluto, Leo, ti saluto io con un aggiornamento sul traffico. Posso una volta nella vita? Posso? Attenzione, no. Attenzione, traffico a Singapore, passeggiatore in pista, punizione 6 mesi di prigione. Ma insomma, questo qui un'altra volta ci penso un attimo, hai capito? Sì, un'altra volta speriamo che non succeda, tanto per cominciare. Bravo, mi sorprende che siano 6 mesi di prigione, sei settimane di prigione e non l'internamento in una opportuna casa di cura. Ma quello successivamente. Però ricordati che era entrato in pista, ha vinto la Ferrari, quindi io invito un brasiliano. Però la prossima volta ignudo. Lo vogliamo ignudo. Grazie, voglio che tu mi trascini sul terreno Tavecchio, quindi non dico nulla su questa ultima osservazione. Salutatevi anche Carlo Tavecchio, a presto amici di Radio 24. Grazie Leo Turrini, è sempre un piacere, starei con ore a parlare con lui. Mi scuso con i due ascoltatori che non sono riuscito a sentire, ma lo faremo domani, tanto siamo sempre qui, tutti convocati. Giorgio De Luca, nostro autore, Gianmarco Ferronato in regia, Giovanni Melchiori in redazione. Ciao a tutti. Ciao, grazie, sei molto gentile.